9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 10 marzo. Torniamo a occuparci oggi di uno dei temi su cui più e più volte le cronache, e noi che seguiamo le cronache, non sempre, ma insomma siamo pur sempre dei giornalisti e dobbiamo quindi seguirle, e ci siamo occupati. E qual è il tema? È quello delle varie affittopoli, si chiamano così, perché in questi giorni, ancora in altre grandi città italiane, a Roma, a Napoli, a Genova, ci sono nuove inchieste dei quotidiani, dei giornali, che informano dei nuovi elenchi che vengono alla luce una volta che si puntano i fari dell'attenzione su quali inquilini prestigiosi, per quanti pochi euro riescono ad aver per anni appartamenti di notevole estensione, in parti molto pregevoli delle città. E ora che per esempio Nasarco ha avviato in maniera proficua una amplissima campagna di dismissioni del patrimonio immobiliare, poiché finalmente si sta estendendo questa convinzione che solo con la dismissione del patrimonio immobiliare si possono evitare a prezzi di mercato i favoritismi degli amici degli amici, ecco, pur in quel caso poi magari emerge che da gestione precedente qualcuno ha potuto riccamente procurarsi case, anche in quel caso di ottima estensione in parti della città in cui tutti quanti noi vorremmo con così pochi euro ottenere appartamenti di quella metratura. E quindi ancora una volta emergono nomi, cognomi, cose che fanno abbastanza ribollire il sangue, come quelle di cui abbiamo letto in questi giorni, per esempio scritte sul Corriere della Sera, nella redazione romana, da Paolo Brogi, che abbiamo qui ospite per questa parte iniziale della trasmissione, per dare un po' di pepe, per così dire, a voi che tutti che siete in ascolto. Buongiorno Paolo Brogi innanzitutto. Pronto? Non è collegato? Ecco. Aspettate un secondo che devo rinnovare qui. Niente, è cascato. Allora, mentre per una volta che mi dicono sempre fai il pistolotto troppo lungo, per una volta che lo faccio breve. Del resto, eccoci qua. Abbiamo Paolo Brogi collegato. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Brogi, ipotizziamo per un secondo che non abbiano letto coloro che sono in ascolto stamattina quello che avete scritto e ha scritto negli ultimi 2-3 giorni sul suo giornale, con nomi, cognomi e cifre che fanno un pochino ribollire il sangue, per così dire. Ce ne riepiloga qualcuna delle vicende più recenti che state seguendo? A quanto di affitto e dove, in che parte della città, tanto per scaldare un pochino il nostro pubblico? Ma il pubblico da scaldare è, diciamo, il titolo che ieri abbiamo fatto è su questo senatore del PDL, Francesco Maria Amoruso, che è originario di Bisceglie, dove abita con la famiglia, insomma, è in corso in via Trieste, che nella scorsa legislatura è stato presidente della commissione di controllo sugli enti, e che in questa veste, si presume in questa veste, ha anche contratto un affitto con un ente privato come l'Enasarco, in condizioni, diciamo, di assoluto favore, nel senso che l'Enasarco ha due tipi di affitti, uno concordato e l'altro affitto libero. Per esempio l'ex ministro Sirchia ha un affitto libero, e quando si dice libero si intende degli affitti più o meno corrispondenti a livelli di mercato. L'affitto concordato invece tiene conto di una serie di parametri sociali e quindi è molto più basso. Nel caso appunto di Francesco Maria Amoruso, ex presidente della commissione di controllo sugli enti, si tratta di un appartamento di 147,30 metri quadri ai Parioli, in via Francesco Civinini, per il quale lui paga 1.141,11 euro di canone, con quote condominiali di 70 euro e quote di riscaldamento di 91, insomma in tutto va sui 1.300 euro. Spese comprese? No. Ai parioli. No. Noi per siccome siamo sempre garantisti e digi alla buona educazione, voglio informare i nostri ascoltatori che il senatore Francesco Maria Amoruso, noi lo abbiamo contattato, lo abbiamo collegato direttamente, ce l'hanno passato subito, e quindi io ringrazio Paolo Brogi che ha alzato la palla, per così dire, e prima dello smash però sentiamo direttamente il senatore Amoruso, perché dica la sua ovviamente su questo appartamento, di questa metratura ai Parioli, con spese comprese 1.300 euro al mese. Allora, senatore, buongiorno innanzitutto e grazie di essere qui ai microfoni. Buongiorno, dottor Giannino, mi dica. È molto semplice, ci spiega un pochino la storia delle condizioni di questo appartamento. Guardi, io il privilegio che ho avuto, anche in funzione di quello che mi chiedeva il suo collega ieri, è stato quello di essere a conoscenza, di venire a conoscenza che nel 2004, se non sbaglio, erano disponibili in questo stabile una serie di appartamenti vuoti, e siccome in quel momento stavo cercando casa, dopo aver fatto una serie di domande in giro, ho fatto anche a Lena Sarco una richiesta di poter eventualmente usufruire di uno di questi appartamenti, e così è nata la possibilità di poter venire qua. In maniera molto semplice, diciamo, non c'è stato nulla di... Quando io sono venuto a visionare, diciamo, c'erano tre, mi pare, appartamenti liberi, lì vivi, e quindi scelsi quello dove adesso attualmente risiedo. E naturalmente io non posso che prenderne atto. Naturalmente lei capisce, senatore, che è un prezzo tale Parioli, per cui chiunque sta in ascolto dice: però avercene di queste possibilità. Che dice? Guardi, io le dico solo questo: indubbiamente il prezzo è un prezzo conveniente. C'è poi un conguaglio che si paga ogni anno, ma quelle sono fesserie, non è questo il problema. Il dato oggettivo è che di fronte a una necessità uno cerca quello che c'è sul mercato, e come me lo hanno cercato anche tanti altri. Non è che diciamo che in questo palazzo ci abito solo io, ci sono tanti altri, anche nella mia commissione, tra i miei colleghi ci sono tanti altri che hanno questo tipo di diciamo di disponibilità. Il problema però io penso che vada visto ed è visto in maniera un po' diversa. Ci sono due parametri che vanno considerati, e io lo dico perché da Presidente della Commissione io ho svolto indagini conoscitive su questi argomenti, anche se vedo che adesso il nuovo Presidente si appresta a fare altrettanto, mi fa piacere, ma io l'ho fatto già qualche anno fa insieme a tanti altri argomenti trattati. E in quell'occasione quello che emerse era che calcoli, parliamo di Enasarco, parliamo di un ente di previdenza privato e non un ente di previdenza pubblico, dove le cose erano, diciamo tra virgolette, poco accettabili, era quando negli enti privati, negli enti pubblici, cioè parliamo di INAIL, INPS, INPDAP, INPDAI, si locavano appartamenti di elevato prestigio anche in zone molto più prestigiose, molto più belle di queste, a prezzi che erano letteralmente ridicoli, e questo era una cosa scandalosa. Ciò che poi successe di più grave è che dopo la cartolarizzazione, quando c'era il divieto di locazione degli appartamenti vuoti perché dovevano essere messi in vendita, gli enti a volte davano anche questi appartamenti a personaggi abbastanza famosi, e questo era ancora più antipatico. Poi c'è stato il caso, ad esempio, di alcuni palazzi di un ente importante che non sono stati inseriti nella cartolarizzazione proprio perché non bisognava far vedere certe cose. Tutte queste storie forse fanno parte più di chi utilizza il pubblico per fare certe cose che non chi chiede a degli enti privati, perché io l'ho chiesto a Lena Sarco, l'avevo chiesto alla Cassa dei Commercialisti, l'avevo chiesto alla Cassa dei Notai, se c'erano delle disponibilità di appartamenti per poter trovare una... Calcoli che quando l'appartamento mi fu dato era in condizioni disastrate, le spese che l'ente Lena Sarco mi ha rimborsato, perché danno la loro valutazione, quelle erano, sono quelle che diciamo loro ritenevano utili per una ristrutturazione. Io ne ho spesi 4 volte in più, perché loro non mi hanno riconosciuto, per esempio, la sostituzione delle finestre, delle porte, che erano cose eccetera, io le ho fatte, perché se uno ci deve vivere, poi ci deve vivere in condizioni normali, quindi ho speso molto di più. Ma questo chiaramente non mi ha posto in una condizione di dire qualche cosa della sacra, anche perché, ripeto, avevo un fitto che, ripeto, non è un privilegio per me, è una condizione ed è un sistema che loro attuano, come diceva il Presidente, sentivo poco fa nella sua intervista, come criterio per tutte le locazioni. Quindi non allora, è che ho avuto un privilegio personale. Va bene, il senatore, e come vede, la prima persona, una volta che abbiamo fatto dire al collega del Corriere quello che hanno scritto ieri, che abbiamo sentito, è lei. A mia opinione, guardi, certo, bisogna distinguere tra enti pubblici e enti privati. Naturalmente gli enti restano poi soprattutto finalizzati alle politiche volte ai loro associati prioritariamente. E poi noi l'abbiamo ascoltato nel religioso silenzio. Io non posso che dire che Parioli, certo, lei lo sa, non è una zona poco pregevole, anzi è tra le più pregevoli della città. E quell'affitto alle orecchie di chiunque ci ascolti appare un affitto a condizione di assoluto favore, assoluto. Poi io non voglio sindacare sulla condizione della casa, i lavori che ho dovuto fare eccetera eccetera, però partiamo anche in questo caso da una cosa che a chiunque ascolti non può che apparire questo. Lei dice è la condizione praticata tutti sul mercato, è sul mercato a quell'estensione, quell'affitto spese comprese di Parioli? No, dobbiamo dirlo che non è così. Allora sentiamo abbiamo con noi anche Brunetto Bocco, che è il presidente appunto di Enasarco. Noi abbiamo reso atto che Enasarco in questa gestione ha avviato questa grande, per esempio, operazione di dismissione tra le maggiori addirittura in Europa, che è in corso. E sentiamo dal presidente Bocco, che ringrazio, buongiorno, buongiorno innanzitutto, quali complesso nuove di misure sono messe in essere, perché ovviamente abbiamo sentito, certo, il senatore Amoruso, però chi ascolta e chi è iscritto agente di commercio dice vabbè, datemela a me quella superficie a quel prezzo di Parioli. È chiaro che ragiona così, non è questione di fare i demagoghi, mi sto sforzando di non esserlo per niente, però è una questione oggettiva. Presidente, allora che cosa ha messo in atto per evitare che gli affitti e le dismissioni e quindi i prezzi di acquisto e chi acquisterà siano ancora una volta poi esponibili al fatto che colleghi del Sole 24 Ore, del Corriere della Sera e altri giornali ripunteranno il dito contro dicendo e ancora una volta la lezione non è compresa? Allora, mi permetta una precisazione dovuta. Nel 2004 lo stabile di via Civinini faceva parte, come tutti gli altri stabili, cioè quello di cui stiamo parlando, i Parioli a Roma, quello di cui stiamo parlando, non era stato tolto dalle trattative con le organizzazioni degli inquilini in relazione alla legge sui patti in deroga. E quindi gli affitti che abbiamo applicato erano quelli che erano stati determinati con le organizzazioni sindacali degli inquilini. Quindi l'onorevole non ha avuto nessun privilegio, perché l'affitto non è stato concordato in via diretta, è stato applicato l'affitto uguale a tutti gli inquilini di via Civinini. Solo successivamente, 2 anni dopo, abbiamo iniziato a togliere questi stabili e quindi a mandarli a mercato libero. Questa è una precisazione dovuta, perché al di là delle considerazioni, questa è la realtà e lo possiamo dimostrare. Detto questo, noi abbiamo elaborato un piano di dismissioni e non abbiamo scelto la via della cartolarizzazione, abbiamo deciso di vendere direttamente agli inquilini e di gestire l'invenduto attraverso dei fondi e con le gare europee abbiamo selezionato delle SGR specializzate che avranno il compito di gestire l'invenduto e poi di smettere anche questo. Abbiamo fatto questo piano di dismissione. Dico subito che nella determinazione dei prezzi di vendita la Fondazione non ha nessun ruolo, perché sono le SGR che nominano i valutatori indipendenti e le valutazioni dei valutatori verranno certificate dall'Agenzia del Territorio, quindi nessuna parte da parte della Fondazione nel determinare i prezzi. Stabilito questo, è inutile girare intorno a questo problema. È premesso che la Fondazione non ha mai violato la legge. Va bene. E si è sempre attenuta, mi scusi, alle procedure interne. Noi abbiamo elaborato questo piano. Io non posso negare che una fondazione che ha 15.000 appartamenti a Roma, 50.000 persone che abitano nei propri appartamenti solo a Roma, più altre 2.000 in Italia, di cui 1.200 a Milano, è sottoposta a pressioni di tutti i tipi. Benissimo, noi abbiamo elaborato un piano di dismissione che riporta la fondazione, perché venderemo tutto, che riporta la fondazione alla propria missione, e cioè quella di gestire il patrimonio al meglio, perché da questo dipende la sostenibilità della fondazione e le rivalutazioni delle pensioni, no? E quindi torniamo alla nostra missione originale, quello di gestire pensioni. E questo, anche se considerato, ed è inutile negarlo, uno strumento di potere, né questo consiglio d'amministrazione, quando il processo sarà ultimato, né i futuri consigli d'amministrazione avranno più questo strumento di potere. Ecco, e quindi mi sembra, clientelismo, e questo mi cose, sembra, e come vede Presidente, io sono stato il primo ad aprire questa trasmissione dandogliene atto. Adesso però, siccome poi gli iscritti, i giornali leggono, i giornali esistono apposta per continuare a rompere le scatole su questo terreno, perché ripeto, non possiamo raccontare che il prezzo di quell'estensione ai Parioli è una cosa diversa da un privilegio, e lo dico sapendo per primo che chi è in condizione di avvalersene, sia parlamentare o non sia parlamentare, e se è in condizione di avvalersene lo fa, questa è la realtà. Quindi non è che mi scandalizzo né sto dicendo mettiamo al rogo il senatore Amoruso, poiché però siccome agli occhi dei cittadini normali che non hanno non svolgono una funzione pubblica, non hanno relazioni, fanno la vita normale, e vedere quelle superfici a quel prezzo si girano le scatole, e questo è il minimo, gli girano le scatole. Allora, noi abbiamo iniziato la trasmissione dando atto di quello che state facendo, però ascoltiamo anche cosa pensa la gente poi di quello che sta avvenendo, sapendo che la gente non può che arrabbiarsi, non essere attenta al dettaglio, ovviamente chi il presidente De Nasarco e gli attuali affittuari a condizioni obiettivamente non di mercato ci diranno ma come, questa è facile demagogia, questa è antipolitica, facile demagogia, però... Io vorrei essere il primo io avere una casa con l'affitto in quel posto di Roma. Sentiamo come la sente, come la pensa per esempio Felice, che ci chiama dalla provincia di Monza. Prego Felice. Sì, la ringrazio. Ho appena sentito il presidente del Nasarco dire che vorrebbero tornare alla loro missione iniziale, che è quella di rivalutare i fondi pensione, eccetera, eccetera. Proprio per questo volevo sapere se tutti gli agenti che sono stati finora penalizzati da questo marciume, da questa svendita di appartamenti, da questo non essere alla funzione originaria, possono fare una class action contro le Nasarco per rivalersi di queste porcherie. Beh, naturalmente che sia proprio il presidente a dovervi incoraggiare, questo mi sembra troppo, però sentiremo come la pensa. Sentiamo Paolo che ci chiama da Roma. Prego Paolo. Sì, buongiorno dottor Giannino, buongiorno ai suoi ospiti. Io sono un agente di commercio. Io sono veramente indignato, io non riesco a capire con quale criterio un senatore che non rappresenta niente delle Nasarco, cioè non è un agente, non versa, non paga, non fa nulla, cioè prende una casa dopo che io sono anni che chiedo un appartamento. E mi viene risposto sempre stiamo dismettendo, stiamo facendo. No, il piano c'è, dicendo... il piano c'è, obiettivamente tutti non abbiamo potuto che darne informazione e prenderne atto. Il piano è un grandissimo piano di dismissione. Però il problema è che il senatore, come avrà capito, è un senatore ed era ex presidente della Commissione parlamentare di controllo. C'è anche questo aspetto che mi tocca sottolineare, e mi perdoni ancora una volta, senatore Amoruso, come è noto io non sono sospetto di partigianerie ostili, però i fatti sono questo. Prego Paolo, continui con questo. Cioè, mi convochi il presidente e mi dica se io ho diritto ad avere una casa, e se mi dà una casa, perché abito in periferia di Roma, due camere, pago 850 euro al mese d'affitto, 57 euro di condominio, eccetera eccetera, e un senatore prende la mia casa, perché è la mia casa, perché dovrebbe toccare me, poi a prescindere se io gli posso pagare i 1.500, 1.400, eccetera eccetera, però il senatore ha preso la mia casa, però il senatore Amoruso è un iscritto in Nasarco. Vede, le sfuggiva questo particolare. È iscritto in Nasarco, ma lui sta lavorando per le Nasarco? No. Sta versando per le Nasarco? Beh, se è un iscritto, versa sì, ha versato per anni. Sentiamolo direttamente, così sentiamo come risponde direttamente il senatore Amoruso. Prego. Pronto? Ho sbagliato a dire che non è iscritto a Nasarco? No, non sono più iscritto perché mi sono cancellato in quanto ho chiuso la mia attività, ma per 15 anni sono stato amministratore di una società di rappresentanza iscritta alle Nasarco, dove abbiamo versato fior di milioni di soldi. Di lire, non di euro. Certo, diciamo. Certo. Va bene. Quindi ero a conoscenza di queste cose anche prima. Come vede, ho contribuito anch'io moltissimo, senza percepire nessuna pensione, perché era solamente il contributo a fondo perduto a fondo che prestavamo come amministratore della società. In quanto ragioniere ero iscritto di diritto alla Camera di Commercio, all'Albo dei Rappresentanti e quindi anche alla Nasarco. Allora, prima di andare in pubblicità per la fine di questa prima metà della trasmissione, Paolo Brogi, qualche paroletta iniziale di commento da parte tua? No, volevo solo fare due puntualizzazioni. Le seguenti: io quando ho preso atto appunto di questo contratto del senatore Amoruso non ho visto semplicemente questo contratto, ne ho visti parecchi, ne ho visionati parecchi, e ho notato che per alcuni è stato possibile scomputare i lavori, come nel caso del senatore Amoruso, che ha scomputato oltre 12.000 euro, altri lavori li ha fatti, ma insomma gli sono stati scomputati sul canone 12.000 euro al senatore Amoruso. Ad altri invece, che hanno appunto chiesto di fare dei lavori, non è stato scomputato niente, anche questo degli interrogativi abbastanza insomma inquietanti sui meccanismi con cui l'ente decide, diciamo, in un senso o nell'altro. Il secondo elemento che vorrei ricordare è che un parlamentare ha nel suo foglio paga ha una voce che è piuttosto consistente sui 3.000 euro di rimborso per l'affitto. Che noi ordinari, diciamo così, cittadini non abbiamo. Hai fatto benissimo a ricordare, Paolo Brogi, anche questo particolare. Ci scusi, senatore Amoruso, però è ovvio che queste cose vanno ricordate e vanno dette. Pubblicità. Eccoci tornati in studio. Siamo partiti dai nuovi aggiornamenti degli inquilini Nasarco di Roma. Li abbiamo seguiti con Brogi Corriere, il collega del Corriere della Sera. Li abbiamo poi approfonditi con il senatore Amoruso, ex presidente della commissione di controllo sull'ente provvidenziale, su cui appunto quella ieri ha messo un pochino gli occhietti su questo appartamento. Ai parole abbiamo sentito le sue parole, abbiamo sentito le parole del presidente di Nasarco, Brunetto Bocco, che ci ha informato delle modalità della dismissione pressoché totale di questo patrimonio immobiliare, sui quali anni dopo anni, tante volte Il Sole, Consoplus e tutti gli altri giornali, quando hanno messo il nasino, hanno trovato tante cose, come quelle del Più Albergo Trivulzio a Milano, che qualche settimana fa ha riacceso l'attenzione, e di diversi IPAB in tutta Italia, di cui parleremo adesso. Insomma, il patrimonio immobiliare degli enti pubblici, ma anche degli enti privati previdenziali, quando si va a vedere, è una sintesi della relazionalità che prevale sulle procedure certe nel nostro paese. Io non voglio mettere sulla graticola nessuno, però è ovvio che quando si esercitano incarichi pubblici, parlamentari, diceva Brogi, pure i 3.000 euro al mese vi diamo per la casa, e a quel punto trovarvi nelle liste di chi ha appartamenti nei centri delle città a prezzi stracciati, vedendosi defalcati, come nel caso che abbiamo visto, i costi per i lavori, tutte cose che a noi comuni mortali sono legate col binocolo, ce le sogniamo la notte. Questo non può che dirci che cos'è l'Italia. Quindi dismettere tutto, questa è la mia linea è radicale. Io non voglio più sentire parlare di eccezioni, presidenti che si devono giustificare. La realtà è che il patrimonio immobiliare, per quanto potesse avere una funzione di garanzia dell'investimento di questi grandi enti previdenziali, casse previdenziali private e pubbliche, nelle mani di chi le amministra pro tempore, diventa una perfetta sintesi di questo paese. Ed è inutile poi perdere tempo sul giustificare le eccezioni. La verità è che in questo paese il patrimonio immobiliare va a dato al mercato, punto e basta, va dismesso, punto e basta, perché altrimenti pro tempore ci sarà sempre qualcuno che dirà che c'era un'eccezione per cui chi contava e chi comandava aveva diritto a ciò che i poveri iscritti e noi poveretti non vedremo. E questo non mi sembra demagogia, mi sembra la sintesi estrema di decenni e decenni della vita del nostro paese. Sentiamo ancora esperienze dei nostri ascoltatori. Antonio, per esempio, che ci chiama da Bologna. Prego, Antonio. Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione, dottor Giannino. Ma guardi, io sono un agente di commercio da tantissimo tempo, verso Enasarco da 24-25 anni, mi hanno prorogato la pensione ai 65 anni, se ci arriverò, ne ho 51, e aumentano i contributi previdenziali, Fino a oggi nessun agente ha mai fatto parte del comitato direttivo dell'Enasarco. Ne hanno combinati in 30 anni di tutti i colori e continuano a parlare in modo politico. Siamo stanchi di queste cose. Noi vogliamo che i furbi in questo paese, e io parlo anche a nome di altri colleghi, ci sentiamo, ne parliamo assieme, eccetera, che comincino a pagare, che mettano lì i soldi che hanno rubato a noi. È chiaro? E si sente sempre parlare a livello politico e io faccio così, poi adesso mi risponderà qualcuno e non risponderà alle domande specifiche, ma comincerà a girare attorno al problema. Antonio, però sa, domande specifiche, lei ha detto io vorrei che pagassero tutti quelli di prima. Quindi, quelli che hanno rubato. Ho capito, però allora ci dovrebbe dire chi sono, chi non sono. Cioè, però io le ho dato voce, adesso ancora qualche telefonata e poi dovrò chiudere con gli agenti di commercio, sennò sembra che poi qui c'è un ordine dall'alto di avercela direttamente con l'Enasarco. Non è questo il punto, come sempre noi abbiamo i microfoni e non è che scegliamo, ma non su criteri di merito le telefonate che mandiamo in onda. Questo lo dico perché molti spesso ci accusano, come ovvio sentendo da fuori, dice tu scegli le telefonate non le scelgo io, non le sceglie nessuno, comunque con un criterio di merito vengono dalle telefoniste selezionate secondo me esclusivamente secondo il criterio di brevità, sintesi e chiarezza nel dire su quale punto si vuole intervenire. Claudio da Arezzo, Claudio, come la pensa? Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. E vede Oscar, se fa una trasmissione la mattina alla radio che parla di Enasarco, prende tutti gli agenti di commercio d'Italia che vanno al lavoro e che quindi si impegnano per la loro attività. Poi se magari la giornata è anche cominciata male, che è un po' di tempo che il lavoro non va tanto bene, allora si arrabbiano ancora di più. Però questo... io a Claudio d'Arezzo chiedo le intenzioni e ciò che è stato messo in essere, non solo le intenzioni, le nuove procedure di dismissione messe in atto dalla gestione di Enasarco, quelle che illustrate prima dal presidente Brunetto Boco, sono comunque una svolta o no secondo lei? Certo che sono una svolta, però magari sono una svolta nel momento sbagliato, perché oltre che essere agente che pagare il Enasarco, sono anche promotore finanziario, un promotore finanziario che ha anche questo doppio imposizione Enasarco INPS, però lasciamo perdere. Oggi ci troviamo in un mercato edilizio che ha avuto una svolta negativa e andiamo a vendere, magari a svendere tutto il patrimonio. Giusto farlo, però forse questo pensiero andava fatto quando l'edilizia tirava, si tirava su dei buoni prezzi. Io credo che all'Enasarco non c'è solo bisogno di sana amministrazione, ma magari hanno anche bisogno di un sano promotore finanziario a questo punto. Lo so, il problema è che se poi gli si chiede di smettere e se gli si dice adesso però non è il momento di smettere, gli si chiedono due cose in contrapposizione. Qui la rottura rispetto al passato, cioè la dismissione, doveva prevalere. Poi sai, le procedure sono sufficientemente lunghe per cui i prezzi, che non è che siano crollati in Italia, obiettivamente come in altri paesi, non è detto che siano comunque svantaggiosi. Allora abbiamo con noi il presidente nuovo della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza, Giorgio Iannone, che saluto. Buongiorno presidente. Buongiorno Giannino. Allora, della sua veste di Presidente della Commissione parlamentare di controllo è iniziata un'indagine dopo queste nuove denunce della stampa sui criteri di affitto e dismissione del grande patrimonio pubblico e privato degli enti. Voi che cosa avete intenzione di fare, Presidente? No, sarebbe grave se avessero iniziato dopo la stampa. No, noi stiamo facendo indagini conoscitive già da tempo su tutti gli enti, non solo su Enasarco, su tutti gli enti di nostra competenza, cioè su tutti gli enti pensionistici italiani. Abbiamo iniziato con un'indagine molto approfondita, lo sa bene anche il Presidente che è presente, sui titoli immobiliari, cioè su tutti gli investimenti in azioni che sono stati fatti in questi anni. Ci siamo accorti, per far arrabbiare ancora un po' di più gli ascoltatori, che c'erano molti titoli Lehman, cioè dei titoli che poi in pratica sono stati acquistati e purtroppo poi sono arrivati a valere qualcosa vicino allo zero. Lo stesso stiamo facendo già da tempo, ma adesso approfondiremo l'argomento, anche sul patrimonio immobiliare degli enti. Quindi andremo a fondo per capire, non con un afflato scandalistico, ma con un approccio tecnico, per capire quali sono gli investimenti fatti, quali sono le rendite di questi investimenti, come vengono venduti questi immobili e con quali criteri, perché i criteri sono altrettanto importanti. Noi crediamo che... Sappiamo che i soldi, che i denari con cui sono accumulati questi immensi patrimoni sono degli iscritti, quindi chi li gestisce è chiamato ad avere una responsabilità grandissima, non sono soldi dei gestori ma sono soldi di migliaia e migliaia di iscritti. credo, guardi, che la nostra commissione, non certo per merito mio che la presiedo, ma di tutti i colleghi, di tutto l'arco politico, quindi dalla sinistra estrema fino alla destra, tutti hanno ottenuto in questa legislatura dei risultati molto importanti. Penso che con il nostro lavoro si siano risparmiati diversi, siano stati risparmiati diverse centinaia di milioni di euro, perché abbiamo parecchio insistito sul tema della sicurezza degli investimenti e faremo altrettanto con gli immobili. Ed è quello, naturalmente, nell'augurarvi buon lavoro, non possiamo che augurarvi e sperare che questa sia l'occasione per incidere a fondo, per così dire, in tutto quello di cui sicuramente non abbiamo il merito noi di segnalarlo come stampa da soli, però insomma di ravvivare il fuoco ogni tanto penso che sia giusto da parte nostra. Mi permetto di dire una cosa, non è stato sbagliato negli anni investire in immobili, perché questi enti sono chiamati a gestire veramente questo non c'è dubbio, ma questo poi lo testimoniano anche gli avvaloramenti del patrimonio immobiliare italiano, ripeto, che hanno andamenti molto meno irregolari da questo punto di vista degli altri paesi. Poi si può discutere su questo, naturalmente io sono un paese del mercato, mi piacerebbe che ogni tanto scendessero, anche correggessero verso il basso, ma fatto sta che questo è un grande incentivo all'investimento immobiliare, e siccome lì si tratta di avere investimenti garantiti, il più possibile garantiti, quando sono enti previdenziali complementari o casse, è ovvio che sicuramente non è un errore. Il problema è come si alloca poi e si mette a reddito il patrimonio in termini preferenziali. Questo è il motivo di cui ce ne stiamo occupando oggi, e non solo nel caso Nasarco. Quando, naturalmente, adesso dopo il minuto di informazione sulla circolazione stradale torneremo in studio, ci occuperemo di Napoli, altra finestra, non solo Milano, Genova, anche a Napoli il mattino in questi giorni sta facendo un po' di ferro e fuoco sul problema di come, a chi, a quanto e dove il patrimonio immobiliare. Eccoci tornati in studio, dicevo, lanciavo l'attenzione su Napoli, dove al mattino abbiamo con noi il collega Leandro Del Gaudio, giornalista del mattino. Buongiorno Del Gaudio. Buongiorno direttore. Dove in questi giorni sono partite, dopo la denuncia della stampa anche in questo caso, e continuo a difendere tutti i colleghi il ruolo dei giornali, che fanno bene il loro mestiere, ripeto, lo ha fatto spesso su Enasarco, ma è tutta la stampa di ogni colore, di ogni segno, che quando si occupa di questo, secondo me, non deve essere accusata di demagogia. È uno dei motivi per cui questa professione così vituperata ancora esiste. E cosa è avvenuto a Napoli? È avvenuto che è andata la finanza all'IPAB del Comune a vedere un pochino le liste e gli elenchi, perché anche lì un po' di liste e di elenchi in posti fondamentali della città, da Posillipo a Corso Vittorio Emanuele, in cui le liste degli affittuari, guardatele bene, messe un po' al microscopio, hanno delle cose che non tornano, è vero o no Del Gaudio? Sì, ci sono delle irregolarità che si partono però da un dato di fatto abbastanza generale, nel senso che il patrimonio immobiliare di Napoli, mi rilascio a quanto dicevate voi poco fa, spesso il comune non conosce tutti i propri beni immobili ed è costretto ad affidarsi alla gestione di un privato, per cui già questa è una contraddizione, perché lo Stato, per capire cosa possiede, quali sono gli immobili che possiede, è costretto a chiedere ad un privato un censimento, che poi resta nelle mani ovviamente di un privato. E questa è già un'anomalia, perché non consente ovviamente una gestione capillare, diretta e immediata di tutti i propri beni. Poi accade che in questo stato di gestione appunto difficile, poco diretta, accade che ci sono degli illeciti. La Guardia di Finanza, ma anche la Polizia Municipale, va detto, hanno fatto una serie di indagini, hanno fatto emergere che alcuni appartamenti in zone belle di Napoli, mi riferisco a Positivo, mi riferisco a Chiaia, al Corso Vittorio Emanuele, da anni appartengono a persone che sono legate agli uffici che dovrebbero gestire appunto l'ufficio casa, quindi finiscono nel mirino di questa indagine, che è ancora appunto aperta, quindi ancora in corso d'opera, finiscono nelle indagini esponenti dell'amministrazione comunale, che avrebbero affidato a propri amici, parenti o propri grandi elettori appartamenti che potrebbero invece essere gestiti attraverso una graduatoria con criteri di trasparenza. Il Comune di Napoli si è molto molto arrabbiato con quello che avete scritto. Il Comune di Napoli si è molto arrabbiato, però contemporaneamente ha avviato un'indagine interna. Questo vuol dire che abbiamo toccato nel segno. Ci sono casi che noi abbiamo in effetti messo in rilievo e che rappresentano un po' la punta di un iceberg di un fenomeno forse molto molto più radicato. C'è per esempio il caso di una donna di una cittadina ucraina. Per anni ha vissuto all'interno di un palazzo, di un edificio del centro storico di Napoli, che comunque è una zona abbastanza richiesta, perché in vicino via Benedetto Croce, quindi stiamo parlando del patrimonio mondiale dell'UNESCO, e questa donna per anni è stata fatta passare come una donna non abbiente, mentre invece questa signora non aveva alcuni requisiti per essere ospitata all'interno di quell'appartamento, e pare che siano state fatte carte false da parte di qualcuno che ovviamente dovrà essere poi la cui responsabilità dovrà essere circoscritta con un'indagine penale, che ha fatto in modo di favorire questa signora chiaramente per anni ha potuto godere di un beneficio che invece poteva essere gestito attraverso una graduatoria. E anche sulle graduatorie c'è ovviamente un'attenzione massima, perché sembra che non tutte le persone che sono riuscite nel corso degli anni ad entrare, a scalare i vertici di questa graduatoria, poi alla fine lo hanno fatto per meriti e per requisiti oggettivi. Questo accade, ripeto, quando non c'è una gestione diretta e capillare dei propri beni. Se io posseggo determinate cose e le affido in gestione ad un privato... È verità, Leandro, lasciami dire che in altre città italiane si è visto che capita anche quando c'è la gestione diretta, cioè è un bel busilis capire se capiti più facilmente. È ovvio che se non si ha addirittura cognizione dell'estensione della presenza del patrimonio e dov'è e a chi dato, magari è più facile. Però altri casi di cui ci siamo occupati da Genova a Milano ci dimostrano che è vero pure il contrario. E anche lì quindi la domanda e il punto interrogativo riguarda appunto il patrimonio immobiliare, in questo caso pubblico, a differenza che nella Sarco privato. Questo era solo per dire che non ci stiamo occupando solo di un caso. Poi io dico a tutti gli ascoltatori, perdonatemi, ho detto più volte, mi scusi senatore Amoruso, se non avete colto che era un po' ironico, perché poi la conclusione era: guardate che noi cittadini ordinari comunque quei prezzi ce li sogniamo, e voi pensate che bisogna semplicemente santoreggiare, lo userò di nuovo questo termine apposta per capire che lo stile della casa qua, il mio, è diverso, e ascoltatori, capitemi, io nel dirmi ogni volta mi scusi senatore, c'è una punta, per così dire, di questa cosa che si chiama ironia, che io preferisco che ci sia piuttosto che dire ma non si vergogna senatore Amoruso, ecco, questo io a questa prassi non ci credo meno, io credo di più in una punta di ironia e di buona educazione. Però il presidente della Sarco Bonetto Bocco ci teneva ancora a dire una cosa, lo dico anche poi a tutti gli ascoltatori che mi hanno chiesto perché non incalzi il presidente con le cose di Cucciubillè eccetera eccetera, perché oggi parliamo di questo e non di quella pagina lì che appartiene al passato, che ci è ben nota, facciamo tutti questo mestiere, non stiamo stendendo un pietoso velo sulle gestioni precedenti della Sarco e di Confcommercio, però oggi ci occupiamo di questo. Diceva presidente Bocco, prego. Guardi, dal 2002 la Fondazione ha deliberato questa procedura per il ripristino obbligatorio da parte della Fondazione degli appartamenti, usa questa modalità: le proprie aziende di fiducia, oppure a parità di costo, oppure a scelta dell'inquilino si fa per conto proprio i lavori, quindi non c'è una procedura oscura. L'altra cosa che mi permetta, dottor Giannino, io sono un lettore del Corriere della Sera da sempre, perché sono di Milano. Certo. E il giornalista, mi piacerebbe incontrarlo, non per limitare il suo obbligo di informazione, ma mi piacerebbe confrontare le informazioni che ha con le nostre per completezza di informazione ai lettori. Questa richiesta la faccio da presidente di Enasarco, ma da lettore del Corriere della Sera. Ma questa richiesta con Paolo Broggi noi gliela giriamo immediatamente, sarà nostra molte cura, perché anzi in questo caso, come vedete, riusciamo anche a svolgere una funzione diretta di controllo per le fonti, non siamo neanche sospettabili di farlo per casa nostra, ma addirittura per la concorrenza mi tireranno sicuramente le orecchie. Eugenio da Cremona, c'è ancora tempo per un suo rapido intervento, prego. Eugenio, ci sei? Giannino, non si può non essere arrabbiati con queste persone, perché io le spiego, io ho fatto fare il computo della mia pensione, ho 55 anni e ho fatto il rappresentante di commercio per un anno e mezzo e nel mio computo non c'è dentro per un anno e mezzo, perché non ho raggiunto non so se i 3 anni o i 5 anni. Eccoci. E non mi è stato contabilizzato, quindi vabbè, ho perso tutte. E questo, Eugenio, io non posso che dire di verificare meglio, di informarci poi se i suoi diritti sono rispettati o meno, però in quel caso sul conteggio e la messa a ruolo dei suoi contributi per la pensione siamo fuori tema rispetto a oggi. Mi scusi ancora Antonio da Catanzaro, che abbiamo tempo per mandare in onda, grazie a tutti gli ospiti, d'ora in poi è tassativo che mi sfumino, quindi io saluto tutti qui quelli con cui siamo andati in onda questa mattina. Grazie, appuntamento a domani. Non era antipolitica, non era giustizialismo, però ho questo patrimonio, lo dismettete a prezzi di mercato, oppure i giornalisti seri continueranno a fare il loro mestiere, cioè rompervi le scatole, perché la gente normale questi prezzi in quei posti non ce l'ha. A domani. Yeah.